Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Eccoci qua, è il 26 dicembre, data che mi ricordo particolarmente bene perché è Santo Stefano ovviamente. Buona domenica da Stefano Gallarini, alle 17 minuti comincia il riposo del guerriero anche oggi, e anche oggi per in qualche modo festeggiare il Natale, perché si dice sempre che Natale sia una nottata magica, ed è vero, perché c'era la stella cometa che ha indirizzato i re magi verso il bambino, e già quella era la magia del cielo. Poi si apre un capitolo vastissimo, anzi direi infinito, e quindi vogliamo festeggiare anche noi il Natale in qualche modo, per avvicinarci verso Capodanno con la magia, ma la magia dell'illusionismo, la magia delle emozione, la magia dello spettacolo, di tutto quello che fa parte dei sogni, diciamo così, e quindi anche un po' della nostra vita, e i sogni che poi diventano reali quando si va ad assistere a uno spettacolo proprio di magia o di illusionismo, che dir si voglia. Di questo parleremo oggi con dei protagonisti internazionali, italiani ma internazionali, e non soltanto, anche veracissimi italiani, alcuni magari meno conosciuti dalla platea perché per esempio non fanno televisione, altri sì, ma altri no, eppure sono conosciuti in tutto il mondo per una ragione o per l'altra. Quindi parleremo di questo con voi e tenteremo anche una magia, un mentalismo, chiamiamolo così, ecco, tenteremo di indovinare che cosa farete voi. Il numero verde vi serve per giocare, perché oggi giocheremo con il mistero in 24 minuti, per voi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere sulla feltrinelli.it. quindi 800 24 00 24 è il numero per prenotarvi. Dovete farlo fin da adesso, giocheremo alle 11:30. 1000 euro che andranno a chi riuscirà a risolvere il mistero in 24 minuti, che avrà come soluzione o un personaggio o una notizia della settimana, e per arrivare alla soluzione vi proporrò come sempre degli indizi musicali. Ripeto il numero verde 800 24 00 24. Fra poco dovrete andare in giro per casa a cercare degli oggetti che vi elencherò e che serviranno per il nostro gioco. Non si poteva che iniziare con i Queen di It's a Kind of Magic, ovviamente, visto che di magia parliamo. Fra l'altro, ieri sera su Rai 2 c'è stata una puntata speciale di Masters of Magic, un grande show magico che poi rivedremo credo ad aprile, poi comunque ne parleremo nel corso della puntata sicuramente. Vi ricordo anche il numero per i vostri sms: 349 238 6666, e attenzione perché tra un po' faremo anche un esperimento, vediamo un po' se funzionerà. Buongiorno Eric Slogan. Buongiorno. Eccoci qua. Hai dormito almeno mezz'ora? Sì, ho dormito quella mezz'oretta, giusto. Allora, Eric Slogan chi è? Eric Slogan è un illusionista internazionale, pur essendo italianissimo. Sì, è vero. Però forse sai meglio il francese e l'inglese dell'italiano. Sì, effettivamente sì. Devo dire che poi sono anche mezzo canadese, quindi è normale parlare francese. È vero, francese, hai il doppio passaporto. Sì, esatto. Questa è un'altra faccenda. Come mai il Canada... partiamo da lì. Come mai il Canada è così attento a un certo tipo di spettacolo? Ma io credo che tutto il Nord America, tutte le Americhe in realtà, abbiano questa tradizione. Sono aperti e amano moltissimo l'illusionismo e la magia. Ma c'è un motivo, c'è una tradizione, perché noi abbiamo una tradizione magica antichissima come italiani, però l'abbiamo persa per strada. Cosa, esatto, è vero, hai proprio ragione Stefano. Credo sia stata persa per strada, perché se noi pensiamo ai nostri Pinetti e Bartolomeo Bosco, stiamo parlando del 1700, ci accorgiamo che la magia nasce in Italia, e non poteva che essere così, dato che gli italiani siamo fantasiosi. Sì, no? Particolarmente fantasiosi. Poi, persa per strada, io credo un po' mescolata con la paura della superstizione. Sì. E mescolata con la parola mago, che significa illusionista, ma che significa anche inganno. Sì. Ah no, anche magia nel senso magia, di magia, nel senso sì, di cartomanzia, chiromanzia, eccetera. Quindi secondo me si è un po' troppo mescolato. Ecco, ho aggiunto inganno perché quando dicevi gli italiani fantasiosi, mi sono venute in mente subito le tre carte, insomma, i tre bicchierini, insomma, la puntata che si fa in strada. E l'italiano ha sempre questo difetto di pensare di essere ingannato e quindi cercare nell'illusione il trucco, senza invece farsi trasportare da quella che è l'emozione dell'illusione. È vero, forse è proprio questa la grande differenza col pubblico americano. Il pubblico americano ama divertirsi ad uno spettacolo di illusionismo e non si chiede il perché, il per come, di cosa sta guardando, cioè perché, come può accadere. Tanto sappiamo che, esatto, non è possibile, certo. È bello lasciarsi trasportare da questo momento surreale. Ecco, invece noi italiani abbiamo facciamo un po' di fatica, ecco, a vedere purtroppo ancora oggi lo spettacolo in questo modo, uno spettacolo dell'illusionismo ovviamente, ma di questo infatti cominceremo a parlare perché poi ci sono anche tanti generi diversi e finalmente l'illusionismo sta ritornando a essere importante anche in Italia dopo gli anni 70 e un personaggio come Silvan, che avendolo portato in televisione l'ha fatto conoscere ovviamente ancora meglio a tutti gli italiani. 10:15, gli aggiornamenti sul traffico e poi torniamo. Il riposo del guerriero. 10:16 minuti, continuiamo a parlare dell'illusionismo con Eric Slogan e appunto stiamo discutendo del fatto che l'Italia è stata culla dal 1700 per esempio dell'illusionismo e poi a un certo punto tutto questo si è perduto. Gli Stati Uniti sono ancora molto attenti a questa forma di spettacolo, sì, d'arte direi proprio nel vero senso della parola, e forse un po' in Italia sta tornando questo gusto dopo il successo degli anni 70 portato grazie alla televisione da Silvan. Sì, io credo che sia proprio, come dire, il momento giusto per ripresentare l'illusionismo in Italia. Penso che ci sia tanta voglia di e anche bisogno di sognare, effettivamente, di tornare un po' a staccarsi dalla nostra realtà e a vivere questi momenti che vuole dire un po' guardare un film di fantascienza o di fantasia in diretta, in teatro. Esatto, perché noi siamo però abituati ormai agli effetti speciali del cinema, sì, per cui lì come ci si riesce ancora a stupire di fronte a uno spettacolo dal vivo, parliamo di quello, quando invece siamo pronti a quasi non stupirci più di un intero mondo che crolla. Faccio un esempio dei film così dedicati al 2012 che ci sono stati. Hai ragione, esatto. Secondo me è proprio questo un argomento molto interessante ed è quello che si deve toccare con mano andando in teatro poi a fare questa esperienza. Forse sicuramente quindi scettici all'inizio, ci si accorgerà che in realtà si rimarrà stupiti anche da un trucco, da un effetto magico semplice, senza l'uso di una grande tecnologia, pur essendo consci di quanto la tecnologia sia andata avanti. E questo succede grazie a quella sorta di vera magia che nasce, e la relazione che nasce tra l'illusionista ed il pubblico, perché l'illusionista sul palco è il catalizzatore della magia che è dentro gli spettatori. E questa è la differenza con la tecnologia e l'effetto speciale, che non appartiene al nostro immaginario, al nostro io interiore. Ecco, quindi quello che conta è proprio un'esperienza fisica, emozionale, che puoi toccare in qualche modo, dove anche il pubblico è protagonista. Il pubblico certo modo è il primo protagonista, certo. Senza il pubblico che vuole la magia non c'è magia, perché la prima magia è quella che il pubblico si pone dentro, ma ce l'abbiamo tutti dentro naturalmente, e il mago la tira fuori con l'effetto speciale, con l'esperienza del teatro. Ed è per questo anche che la magia ha molto più presa e impatto in uno spettacolo dal vivo che in televisione. Certo, perché in televisione puoi sempre pensare che ci sia un artificio differente, esatto, non riesci a vivere l'emozione. Esatto, c'è lo schermo che ci blocca. Però è vero che la televisione, d'altro canto, è fondamentale per la diffusione di un'arte, e tu non puoi pretendere che un'arte sia popolare se il pubblico non la conosce. No, no, infatti mi viene in mente quando Silvan era in televisione praticamente tutti i giorni, parliamo appunto degli anni 70, immagino quante scatole magiche e quanti libri di magia firmati da lui siano state vendute. Adesso non so le cose come andranno, poi lo chiederemo perché abbiamo degli ospiti che ce lo possono anche raccontare. Sì, sì, sì. Tu lo avevi la scatola magica di Silvan? Ah, io ce l'ho ancora adesso. Intanto Eric Slogan ne ha fatta una sua anche, ecco, volevo dire, perché adesso c'è quella di Eric Slogan, una volta c'era quella di Silvan. Allora, credo che ci sia anche il primo ospite oggi, Walter Rolfo, buongiorno. Sì, tanti auguri. Sì, ciao, ciao Walter. Allora, ieri Masters of Magic su Rai 2 è andato in onda questo speciale, chiamiamolo così, in attesa di quello che poi vedremo ad aprile, immagino. Sì, poi abbiamo anche un'altra puntata questa sera, un'altra al 31 e un'altra al 7 e poi altre due da sistemare ancora in palinsesto, quindi un Natale in insegna della magia. Allora, e poi ad aprile, scusami, ad aprile giustamente due prime serate su Rai 2 con il campionato italiano di magia. Ecco, innanzitutto spieghiamo cos'è Masters of Magic, perché ne avevamo anche parlato, stavo dicendo l'anno scorso, ma siamo ancora nel 2010, un po' di mesi fa, perché è un convegno internazionale particolarmente importante quello di Saint Vincent. Sì, come giustamente diceva Erics, la magia è la regina delle arti e ha bisogno che la gente la conosca, perché un po' come accadde con il cabaret, che ebbe un periodo di buio e poi Zelig in qualche modo riportò la luce, noi che siamo un'associazione culturale abbiamo l'idea, la convinzione che facendo vedere magia la gente si appassioni alla magia. E quindi abbiamo questo congresso magico che è unico al mondo, perché è il primo congresso di maghi, quindi di tutti i prestigiatori che si trovano, inventano le magie, studiano nuovi prestigi, aperto al pubblico. Questo per dimostrare che il segreto della magia è importante, ma soprattutto è importante l'emozione che la magia riesce a generare negli spettatori. Quindi venite a vedere il trucco, tanto poi l'importante è che sognate con quello che poi vi facciamo vedere. È lì che bisogna arrivare, perché altrimenti non riusciamo ad emozionarci. Senti Walter, quanto è stato difficile, se lo è stato ovviamente, convincere una emittente importante come Rai 2 ad andare in onda anche con così tante puntate dedicate alla magia? Ma diciamo che su Rai 2 c'è un direttore illuminato che è Massimo Liofreddi, che crede nella magia, lui è un grande appassionato e difatti ha sempre proposto, quando era capostruttura su Rai 1 con lo Zecchino d'Oro, ha sempre proposto magia perché crede nel valore comunicativo e nel valore emozionale della magia, quindi di per sé ci ha aiutato molto lui. E, in effetti è vero questo, perché quello che dici, perché la gente in TV soprattutto teme che la magia non funzioni, questo perché la magia per anni è stata fatta male, nel senso che trasporre uno spettacolo teatrale in televisione non è la cosa più saggia. Poi ovviamente ci sono state le eccellenze come Silvia Binarelli, Alexander, che in qualche modo hanno portato avanti il mondo della magia. Invece quello che abbiamo fatto noi come Masters of Magic è stato appunto prendo esempio da Zelig, e quindi abbiamo accorciato il numero dei minuti, perché uno spettacolo di magia non deve durare più di 3 minuti. Questo è quello che è la legge della televisione. Abbiamo aumentato il ritmo, abbiamo messo una promessa in testa, cioè non abbiamo soltanto preso la magia e l'abbiamo messa in TV, abbiamo lavorato anche nella presentazione dell'effetto magico. Certo, perché il mezzo è fondamentale, senza quello, se non si considera quello. Come diceva Erics, il pubblico è la parte iniziale di un'illusione e in questo caso la TV è la parte iniziale, perché la TV rappresenta il pubblico, quindi bisogna capire su quale mezzo la si mostra. E come ascolti, Walter, Rai 2 è contenta? Rai 2 è contenta, sì, è andata bene. Ad aprile con la prima serata abbiamo fatto 10%, che comunque è un ottimo risultato per un one shot, nel senso praticamente una puntata zero. Ad essere sincero, per quelli di ieri sera non ho ancora i dati, perché essendo Natale in Rai è tutto chiuso e quindi stavo cercando disperatamente in internet da 10 minuti, anche perché i dati di ascolto escono alle 10:05, 10:10, quindi ho già capisco tutta la rete e capisco la trepidazione, comunque vedrai che andrà bene. Allora, chi volesse informazioni e magari partecipare anche a Saint Vincent come spettatore, non ancora come illusionista, sì. non se cominciate oggi, perché si parla di grandi professionisti, ecco, non si parla di chi sbaglia in televisione giochi. No. Mastersofmagic.it è il sito, giusto? Ecco, sì, www.mastersofmagic.it, che tra l'altro è un portale di magia. Abbiamo creato un Facebook della magia italiana, quindi trovate, andandoci, tutti i maghi italiani. Trovate tutti i giorni una web TV con un contenuto aperto a tutti, quindi insomma è proprio un modo per conoscere magia. E dal 22 di gennaio ci sarà un nuovo programma su Rai 2 dedicato ai bambini, dove insegniamo ai bambini a diventare mago. Quindi tu parlavi della scatola di Silvan, noi faremo una scatola di Silvan in televisione e quindi si troveranno sul sito un sacco di contenuti proprio per i più piccoli, che come noi hanno questo sogno, sperando poi di avere un sacco di nuovi grandi maghi nel futuro. Sicuramente sarà così, almeno ce l'auguriamo. Grazie Walter, buona giornata, buona grazie domenica. Ciao, auguri. Grazie. Ciao a tutti. Continuiamo Ciao. A parlare con Erics Logan. Allora, partiamo dalla scatola magica e poi cosa succede? A un certo punto un bambino comincia a vedere la scatola magica, poi scatta qualcosa. Esatto, può scattare o non scattare. Se non scatta, è stato un bellissimo approccio alla magia, ci rimane affezionati, si vanno a vedere gli spettacoli perché si è un po' entrati nel mondo e si è capito cosa la magia può apportare alla nostra vita. Se invece si va un pochino più in là, un pochino più oltre, allora si rischia di cadere nel professionismo. Lo dico ovviamente in maniera ironica. Certo, è un rischio perché il professionismo, almeno in Italia, ha... È una professione assolutamente difficile, complicata. Una fortuna però è che comunque, essendo la magia un'arte visuale, in realtà non ha barriere, quindi può anche andare oltre i confini nazionali, ed infatti la maggioranza dei professionisti italiani, almeno fino ad oggi, è andata oltre i confini nazionali, un po' anche per necessità, per istinto di sopravvivenza, direi. Bisogna mangiare alla esatto. fine. E con questa fortuna. Però adesso pare che in realtà ci sia il ritorno in patria di... Allora, tu stai preparando innanzitutto uno spettacolo magico che andrà in scena a Milano, sì, al Teatro Nuovo, un teatro importante, in piazza San Babila, quindi in pieno centro, sì, della città, che avrà due date, il 28 e il 29, che è un po' un esperimento. Sì, è un fra inizio... due giorni. Sì. Esatto, è un po' un esperimento, credo, per ridare vita anche grazie a Walter Rolfo, che l'ha portata in televisione, forse, sì, la magia. Direi che è la risposta teatrale a Masters of Magic, sì, ovviamente in senso cooperativo e, certo, e buono, nel senso che Walter sta portando avanti questo progetto molto molto importante, perché chiaramente parliamo di televisione, quindi il medium più diffuso, e noi cerchiamo di farlo in teatro, che è un altro medium molto importante, perché comunque non dimentichiamoci che la magia è un'arte teatrale, nata in teatro, ed è in teatro dove ovviamente non c'è il limite dei 3 minuti imposto dalla televisione. No, ma poi c'è molto di più, c'è proprio un'emozione sensoriale. C'è l'emozione sensoriale. Ecco, noi stiamo cercando di ripresentarlo in teatro, la vera magia e il nuovo illusionismo, io lo chiamo Mysterix, il nuovo illusionismo. C'è un sito www.mysterix.it dove scritto Mysterix, sì, è un bel gioco di parole, è un gioco di parole, esatto, è un gioco magico ovviamente anche quello. Cerchiamo di presentare un nuovo illusionismo, ossia dal passato prendiamo ciò che il passato ovviamente ci tramanda e lo ripresentiamo in una versione che è più adeguata al linguaggio del pubblico di oggi. Ecco, quindi un bel esperimento. Adesso poi, siccome tu hai calcato i palcoscenici veramente di tutto il mondo, perché hai girato davvero tutto il mondo, e poi ti chiederò insomma le differenze, perché indubbiamente ci sono, e noi italiani come ci stiamo muovendo in questo senso. Tra pochissimo nel riposo del guerriero. Palleggio frenetico, passaggio corto, palla che schizza a destra, a sinistra, in alto, no, in basso, fallaccio. La palla vola, finta di corpo, all'ala, al petto, magico recupero al centrocampo. L'ha recuperata, ma dove va? Dove va? Credit Reforma, con più di un secolo di esperienza, recupera i tuoi crediti nel mondo con efficacia, velocità e talento. Chiama il numero verde 800 425 325 oppure collegati a creditreform.it. Quando Credit Reforma entra in azione, non perde mai la palla. In edicola Classic Voice è antiqua. Con Classic Voice in 2 CD Il Messia di Handel riscritto da Mozart, solo 10 euro. E con Antiqua dal Centro della Pietà dei Turchini, Napoli negli anni degli Scarlatti, solo 9,90 euro. XG. ClassicVoice.com. Gamma Citroën approvata a 4 ruote. Euro 5 ESP, 5 anni di garanzia e al quarto anno in Citroën, valutazione del 10% in più sulla quotazione 4 ruote. E adesso il tuo usato vale il 10% in più. Se ne è parlato così tanto che abbiamo deciso di prolungare l'operazione approvata a 4 ruote anche per il mese di dicembre. Scopri 18 modelli della gamma Citroën approvata a 4 ruote. Prezzi bloccati fino al 31 dicembre. Info su citroen.it. Il riposo del guerriero. Eccoci tornando, stavamo parlando di magia in effetti, ma stavo leggendo anche i vostri sms, vi ricordo il numero 349-238-6666, ringrazio perché hanno appena pubblicato una foto su Facebook, noi abbiamo lo spazio del riposo del guerriero su Facebook, e Anto e Marco sono andati ai mercatini di Cannes e hanno trovato questo banchetto straordinario tutto dedicato alla magia. Wow. Infatti la Francia, perché diciamo che il Canada, in particolare il Canada francese, il Quebec, sì, è particolarmente vicino all'illusionismo. Eh sì, è molto molto vicino all'illusionismo e produce, esporta anche grandissimi spettacoli. Scusami, apro una parentesi, gli grandi spettacoli di Arturo Bracchetti, esatto, sono prodotti dai canadesi. Esattamente, sono stati loro che hanno lanciato il nostro grande italiano, no? Quindi vedi che dall'estero poi si ritorna in Italia in qualche modo, anche Arturo ha avuto questo bel percorso. Tu che hai girato il mondo? Sì. Non so se hai cominciato, però le navi sono state un momento importante per sono te, state credo. Un momento molto importante e sono state il primo approccio internazionale. Sì, sì, ho iniziato internazionalmente proprio con le navi. Le navi ti danno subito l'internazionalità perché già il pubblico è internazionale, hai pubblico di tutte, che viene da tutto il mondo, l'equipaggio è anche di tutto il mondo, quindi convivi con persone che hanno differenti culture. Però ci sono molto esigenti, vogliono spettacoli di grande qualità. Sì, sono molto esigenti, forse è un po' cambiata la situazione, anche oggi c'è un po' più di tolleranza, ma perché c'è un motivo molto chiaro, un motivo commerciale. Le navi non sono più da 800.000 passeggeri come una volta, ma sono da 2.000-3.000 passeggeri e quindi è cambiato completamente il concetto della nave da crociera e anche dell'intrattenimento a bordo. Ecco, però è un'esperienza fondamentale per chi volesse fare un certo tipo di spettacolo, immagino. Sì. Se vogliamo una curiosità, ti posso dire un po' la reazione diversa del diverso come pubblico. Come no, è quello infatti che ti avrei chiesto. Allora, ma tu sei un mentalista, tu leggi nella mente. Eh beh, è un po' di magia, certo. Ormai ce l'abbiamo nel sangue. Il pubblico asiatico ti guarda, ti studia, sta attentissimo a ciò che fai, ti segue veramente molto e alla fine non ti applaude. E allora tu dici, caspita, devo aver sbagliato qualcosa, certo. Come mai? Ti applaude alla fine dello spettacolo, è una tradizione, soltanto alla fine. Quindi tu fai un'ora, un'ora e mezza di spettacolo dove ricevi applausi freddissimi, proprio di circostanza, ma proprio pochissimo, e alla fine invece ottieni l'applauso finale, il pubblico va via contento e poi apprezza, e se non apprezza ovviamente va al botteghino. Non si vuole e chiede indietro i soldi. Ecco, quindi non spaventatevi, lo dico perché deve approcciare un pubblico di quel genere. Il più cacciarone qual è? Pubblico americano, si diverte, grande casino. Pubblico tedesco anche molto caloroso, non si direbbe, no? Perché si è abituati a pensare a un pubblico composto e invece il pubblico tedesco ama divertirsi e adora lo spettacolo visuale. Chissà anche la Merkel, visto che grazie a Wikileaks abbiamo scoperto che non è particolarmente creativa, ma vabbè, lasciamo perdere. Chissà davanti a un illusionista come potrebbe, siccome ride come una pazza. Bah, sicuramente si affascina. Pubblico francese, sì. Molto molto competente di illusionismo, questo grazie anche al programma Le Plus Grand Cabaret du Monde, che va in onda, pensate, da 12 anni su France 2, che praticamente corrisponde al canale 5, diciamo, no? È una rete privata, la prima rete privata nazionale francese. E con ascolti che ancora oggi e per sempre è stato di 8-9 milioni di telespettatori ad ogni puntata. Ecco, tra l'altro su YouTube trovate tantissimi video raccolti proprio da questa trasmissione. Andate a vedere, guardate il livello degli artisti, non è solo magia, è tutto spettacolo visuale, quindi anche quella parte che noi siamo abituati a chiamare circo, ma che in realtà il circo è un ambiente, come la televisione, come il teatro. I numeri possono essere gli stessi che vedi in televisione, in teatro e nel circo. Non siamo un po' troppo abituati ad etichettare. Quindi un giocoliere è un artista, ma non è un artista da circo, va benissimo anche in teatro e in TV. Certo. E lì sì, e lì questo si capisce in Francia. Io tra l'altro sono stato 3 anni in Francia recentemente, quindi vengo proprio dalla Francia. Ancora oggi un mio piccolo numero di illusionismo sarà che effettivamente io sono in Francia a lavorare e nello stesso momento sarò anche al Teatro Nuovo. Ah, quindi il dono dell'ubiquità, in poche parole. Hai parlato di giocoliere, c'è anche un giocoliere della mente che è Francesco Tesei, che saluto. Ciao Francesco, buongiorno. Ciao Stefano, un saluto a tutti da Barcellona. Ecco. Ciao Francesco. Ciao Erix. Ecco, ti hanno tirato un po' un pacco di Natale, ho scoperto in realtà. Ho raccontato tutto. Cioè, la storia è che Erix fa questo show e per chi si occupa e ha la passione dell'illusionismo sarà uno show che è molto atteso, perché appunto è raro vedere uno spettacolo di grandi illusioni in Italia. Sì. E Francesco chiaramente voleva venire a vedere lo spettacolo, però gli è stato regalato con grande amore ovviamente uno straordinario viaggio in una città meravigliosa che è Barcellona, ma non potrà vedere lo spettacolo. A meno che, Francesco, anche tu non abbia acquisito il dono dell'ubiquità. Purtroppo ancora no quello, infatti sto rosicando un pochino, per quanto sia bellissima Barcellona mi dispiace di non essere a questo appuntamento, davvero ci tenevo, anche perché la sensazione parlando in questi giorni con Erix è che davvero ci stupirà, insomma è uno spettacolo di magia fuori dai canoni, ecco, mi è sembrato di capire. Francesco, io prima parlavo di giocoliere della mente, perché prendevo in prestito il titolo del tuo DVD che è Mind Juggling, perché tu ti occupi di un aspetto invece piuttosto diverso? Sì, Mind Juggling, giocoliere della mente, l'idea è molto semplice, così come un giocoliere, come siamo abituati ad immaginarlo, compie delle evoluzioni e delle acrobazie con le palline o con le clave, eccetera, io faccio qualche cosa di simile, ma con i pensieri delle persone. Ecco, perché succede questo? Quando un giocoliere ha tre palline in mano, che è, diciamo, la parte più semplice, tra virgolette, non sono ancora capace, sto imparando, in effetti non c'è nessun tipo di trucco, cioè bisogna semplicemente essere abili nel riuscire a muovere le mani in un certo modo per ottenere il risultato, che sono le tre palline che girano a cerchio, come tutti abbiamo visto tante volte, e poi mano a mano si aggiungono anche altre parti. E tu quindi, il tuo lavoro è quello di ottenere più o meno la stessa cosa con i pensieri della gente. Sì, direi che hai centrato proprio un punto fondamentale. In effetti io posso dire che mi occupo delle magie della mente, ma mi verrebbe da mettere la parola magia un po' tra virgolette, certo, in un certo senso. È una sfumatura magari, però tu probabilmente mi capisci bene. Quando a me mi dicono ma tu sei un mago, diciamo che ho una sensazione strana che pervade il mio corpo, perché non è esattamente la stessa cosa. È come se ti definissero a te stesso, se ti dicessero che sei un disc jockey. Sì, no, infatti non è così, esatto. Non è la stessa, esattamente la stessa però cosa. Però uno, cioè, mettere due cose, uno in radio, automaticamente un disc jockey. Qui a Radio 24, bravo, sarà difficile, ecco, che lo siano, chiunque vada in onda. Senti, Francesco, per far capire agli ascoltatori, io dico una cosa. Quindi nel tuo spettacolo dei numeri possono anche non riuscire affatto. Potrebbero non riuscire, quindi. Sì, mi è proprio successo all'ultimo spettacolo che ho fatto 2 giorni fa. È chiaro che per quello che sei fuggito in Spagna, eh? Sono scappato in Spagna, sto pensando di non tornare più in Italia, in effetti. No, ma guarda, capita spesso, questa domanda me la fanno spesso e devo dire che non ho nessun problema a dirlo, proprio perché anzi ci sta dentro ad uno spettacolo come il mio, che è 2 ore e un quarto, di avere anche qualche imprecisione. Ora capisco che non è la cosa più intelligente da dire in un momento come questo, dove avrò probabilmente 2 minuti di tempo, ma concentrarmi su questa cosa. Ma in realtà è anche il bello del mentalismo, che non è infallibile, ecco. Secondo me fa parte del fascino del mentalismo. Ma io sai che credo che la gente possa venire a vedere un tuo spettacolo per cercare di coglierti in fallo. Cioè, la sfida, secondo me, che arriva da parte del pubblico è quella di farsi affascinare da come tu possa essere in grado di portare gli spettatori a decidere delle cose che in realtà sì, hanno deciso loro, però tu, usando anche la PNL, la programmazione neurolinguistica, cerchi di deviare, diciamo così. Dall'altra parte, credo che ci sia la sfida da parte degli spettatori di cercare di capire il meccanismo e fregarti, magari senza riuscirci. Senz'altro, anche se devo dire che io cerco di non entrare con i miei spettatori in un meccanismo di sfida. Ma gli italiani sai come sono fatti su queste cose, eh? Sì, quello è verissimo. Eric, prima sentivo che faceva un po' di differenze tra le varie nazionalità. Io ho lavorato per un certo periodo di tempo anche io nelle navi da crociera, quindi sottoscrivo tutto quello che ha detto Eric. Tra l'altro, appunto, gli italiani hanno questa cosa, che hanno sempre visto la magia come così, come l'inganno, una persona, il protagonista che ti deve fregare, che ti sta fregando, ed è una cosa anche un po', non dico antipatico, ma per artisti come me, come Eric, che cerchiamo di lavorare su livelli diversi, al di là del ho fatto una cosa e tu non hai capito come ho fatto, ma a un livello metaforico, eccetera, sì, questo diciamo è il piano un pochino più superficiale in un certo senso. E gli italiani spesso si focalizzano su questa cosa, però devo dire la verità che dopo un po' di anni che faccio mentalismo comincio a essere un po' conosciuto, ho fatto un po' di televisione, anche se ancora mi definisco un artista underground, ecco, in ogni caso io penso che dopo un po' di anni il pubblico che viene a vedermi ormai mi conosce e non è quel tipo di pubblico che viene per dire adesso vediamo se riesce a fregare anche me questa sera, viene con l'idea di giocare assieme a me, non contro di me. Certo. Si capisce quello che voglio, certo, dire. Ma sai, a volte quando si gioca contro è anche un giocare assieme, però, no? Nel senso che è una sfida, ma è una sfida col sorriso sulla bocca. Come può essere, ecco, una partita. Esattamente. L'altro giorno, quando ho sbagliato, per esempio, ho c'era una ragazza che stava pensando ad una parola e io ho provato ad indovinare e ho sbagliato parola. E a quel momento ho chiesto: ah, mi dispiace, come ti chiami? È venuto fuori che era una straniera. E quindi io non avevo colto il fatto che non era italiana, era una ragazza polacca. E probabilmente questo mi ha... Certo, mi ha messo in buca, il meccanismo non ha funzionato. Sì. E poi vi siete fidanzati. Devi finire così, anche se non è vero. Però piace una storia di questo genere. Di solito funziona. Sono a Barcellona con lei. Ah, ecco, come... bravo, è così che bisogna fare. Francesco, io ti saluto e invito a vedere il tuo sito, che è francescotesei.com, per avere un po' di informazioni e anche le date del tuo prossimo spettacolo. So che ne farai anche quando sarai in TV. E goditi la vacanza. Grazie ragazzi, un abbraccio a tutti, soprattutto ad Erix, tanto in bocca al lupo, e consiglio da parte del mentalista di andare a vedere Misterix a Milano. Questa diventa pubblicità e guarda che dopo la deve pagare Erix, per cui faremo un conto unico allora. Ciao, grazie, Francesco. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Ecco, proprio su questo, Enrico, sull'errore, no? Di adesso, quando andiamo al circo, quante volte un po'... Speri ma col sorriso sulla bocca, perché non vorresti mai che qualcuno si facesse male. Però insomma vedi il trapezista in alto e tu dici adesso non la prende e cadi sulla rete. Sì. Un po' lo speri, però non lo fai per cattiveria, è per quel brivido, ma credo che sia voluto anche da parte... Sì, sicuramente, e la riprova di quello che stai dicendo è che poi quando effettivamente un giocoliere o un acrobata dovesse sbagliare l'esercizio viene subito applaudito. Al contrario, però, il mago, quando sbaglia l'esercizio, in realtà viene deriso. Ed è normale che sia così. È normalissimo. E da qui mi dai lo spunto per parlare del meccanismo diverso dell'impatto diverso che dello spettatore prova fra un numero di abilità ed un numero di magia. Nel senso che nell'abilità riscontriamo la difficoltà. Quindi, e in un certo senso, c'è quello stimolo del speriamo che sbagli il trapezista, che fa un po' parte dell'uomo all'interno, ed è inconsapevole, è incosciente, ma è dentro di noi. È un po' quando ci si rallenta un po' in autostrada per vedere l'incidente, ahimè, accaduto nell'altra corsia. Certo. No? È normale che sia così, non credo che si possa, credo che sia umano, quindi non credo che sia colpa di nessuno. Altrettanto nel meccanismo della magia non è la difficoltà o che si va ad applaudire, è il fatto che l'effetto magico ti porta in un altro mondo, nel mondo del meraviglioso, nel mondo del fantastico, e va a toccare delle corde interiori che noi abbiamo dentro, il famoso bambino che c'è dentro di noi, che non deve essere una vergogna pensare di riscoprirlo, anzi è una meraviglia, è fantastico, meno male che c'è il bambino rimasto dentro di noi, perché ci aiuta a superare tutte le difficoltà della vita, in realtà, come dalla nascita in avanti. È no? Per questo che l'illusionismo è un po' più maschile che femminile, perché noi abbiamo sempre questo complesso di Peter Pan che ci accompagna fino alla morte. Potrebbe essere, non ne ho una certezza, ma stai dando una buona teoria, credo, Stefano. Bene, 100 euro per la consulenza psicologica, sicuramente. No, però è curioso, perché di donne illusioniste ce ne sono pochissime nel mondo. Ce ne sono veramente poche, però anche nell'ambiente femminile la magia si sta sviluppando molto, come dappertutto, perché la magia è veramente in grandissimo sviluppo, grandissima crescita. Stiamo parlando oggi non solo di magia perché è Natale, credo, ma anche perché veramente è un'arte che si sta riscoprendo tantissimo. E quindi si stanno appassionando in tanti, e anche molte donne. Molte ragazze. Vedremo di farvi appassionare anche. Vorrei tentare un esperimento con gli ascoltatori. Vi dico il numero verde se volete partecipare: 800 24 0024, sia quindi per prenotarvi se volete per il mistero in 24 minuti che faremo alle 11:30, ma sia per provare questo esperimento in diretta con voi. 800 24 0024, gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Illusionismo, chissà quanti magari a Natale hanno chiesto in regalo qualche gioco, una scatola, un libro. Stanno uscendo anche tra l'altro dei libri scritti anche molto bene, che insegnano dei numeri particolarmente efficaci. Poi avremo modo anche di parlarne, di darvi qualche consiglio, perché qualche ascoltatore magari è incuriosito, anche vuole cominciare a percorrere questa strada. Ti sta venendo in mente una cosa sull'errore prima, Erix? Sì, ho dimenticato una cosa molto importante: perché il pubblico di fronte all'errore del mago non ha applaude ma anzi lo deride, perché rimane dispiaciuto. Ed è come quando tu stai sognando, sei immerso in un sogno meraviglioso, a un certo momento qualcuno ti svegliato all'improvviso, la prima reazione non è l'applauso, il poverino ha sbagliato, ma è caspita, stavo sognando e mi ha tolto via. Certo, perché tu poi dai, in qualche modo fai una promessa, come insegna il film all'inizio, e quella promessa poi non si mantiene, non più si mantiene, il che è bruttissimo. Non dirlo a me, che quando sbagli davvero però a volte il pubblico non se ne accorge. Allora io voglio dire a tutti, voglio svelare il piccolo segreto di Stefano Gallarini. Stefano è un appassionatissimo di magia e lui stesso fa giochi di magia, cioè spettacoli anche. Pensavo che se lui stesso sbaglia, è vero, come no. Come ognuno che si mette in gioco, chiaramente è normale anche sì. È stato bellissimo durante uno show, chiama una persona del pubblico sul palco, non viene una cosa che doveva accadere, nessuno si accorge ovviamente, e l'ho fatta risedere poi tra il pubblico e nessuno ha capito come mai, però io so. Questo è un piccolo vantaggio, piccolo grande vantaggio del mago, che il pubblico non sa quello che noi stiamo per fare e ci dà la possibilità ovviamente di deviare al piano B, il famoso piano B, nel caso che qualcosa non funzioni. Adesso andiamo a Roma. Sveliamo i trucchi. Sì, in qualche modo sì. Andiamo a Roma perché c'è un evento molto importante e seguitissimo, non soltanto dai romani ma da tantissimi italiani. Max Cerchietti, ciao, buona domenica. Ciao, buona domenica a te Stefano, a tutti i tuoi ospiti, buon Natale in ritardo. Ciao Max. Allora, parliamo di Eric Slogan, che ti sta parlando, che è di fronte a me in questo momento. Saluto l'amico. Ciao Enrico. Ciao. Super Magic, a Roma una manifestazione che dura una settimana, credo. Quante repliche sono? Sì, dunque, noi debuttiamo al Teatro Olimpico il 28 gennaio e chiudiamo al 6 febbraio. Ecco, faremo le doppie, il classica domenica mattina, il sabato, e quindi è l'ottava edizione e siamo pronti, ecco, via. Ma senti, ma i biglietti si trovano? Lo dico perché io so che veramente c'è stato un interesse straordinario. L'anno scorso avevate il tutto esaurito, tutte le serate, ma prima di iniziare. Sì, ecco, è una cosa che ha colpito molto anche noi. Noi la nostra storia parte in un teatro romano in periferia, il vecchio Teatro Spazio Zero, e questa è l'ottava edizione, per quella l'abbiamo chiamata Infinito, perché il simbolo dell'infinito è un otto rovesciato, ci sono un sacco di simboli che mettiamo in ogni spettacolo con precisione. Questo appunto per confermare l'edizione, l'ottava edizione, abbiamo appunto deciso di chiamarla Infinito. È stato un crescendo, ecco, ha colpito anche noi, dico la verità, fino a quando appunto all'Olimpico, già da un paio d'anni, abbiamo la fortuna, ecco, di registrare in ogni replica il tutto esaurito, è vero. Senti Max, che tipo di pubblico c'è? Ne so, ci sono sicuramente gli appassionati, vabbè, quello lo sappiamo, perché l'Italia ha offre talmente poco in questo senso, per cui gli appassionati corrono tutti a vedere quello che c'è da vedere, giustamente. E poi chi c'è? Sì, esatto, noi all'inizio abbiamo pensato proprio che mancava al paese uno spettacolo dedicato proprio al pubblico. Noi abbiamo manifestazioni nostre, poi Eric lo conosce benissimo, per gli addetti ai lavori eccetera, però proprio lo spettacolo di magia fisso o itinerante in teatro mancava, e quindi noi abbiamo deciso come proprio target di andare a parlare alla gente del nostro lavoro. Ovviamente abbiamo anche una serie di colleghi che ci vengono a trovare, fa molto piacere, ma vediamo che è dedicato e presente praticamente famiglie, ecco, il babbo, la mamma, i nonni, insomma tutta la famiglia, ecco, ci viene per fortuna a vedere, questo è vero. Meno male, insomma. Secondo te ancora la magia, hai ancora vista l'illusionismo come uno spettacolo dedicato ai bambini, perché c'è sempre quella chiave, oppure non soltanto i bambini, anche, ma in realtà è davvero per tutta la famiglia, nel senso tutte le età, da 0 ai 99, come recitano tante scatole dei giochi? Sì, guarda, in realtà la domanda è giustissima, cioè il gioco di prestigio, il nostro mestiere non è per i bambini, non è mai stato un mestiere dedicato o creato per i bambini, già dalla storia appunto dei giochi di prestigio. Ovviamente con l'evoluzione e con tutti i film che sono usciti, senza fare nomi, sorpreso e ha stimolato anche la fantasia dei bambini. Noi cerchiamo di portare a teatro un pubblico più adulto e su questo insomma ci stiamo riuscendo, vediamo che a parte ecco, le classiche pomeridiane, però la sera notiamo un afflusso di gente adulta, beh certo, anche senza figli, ma perché fondamentalmente è uno spettacolo teatrale, per cui è destinato a tutti e anche, e a volte soprattutto un pubblico adulto, ci sono tanti numeri che i bambini non riuscirebbero neanche a capire per un motivo o per l'altro. Speriamo che poi questo Super Magic riesca a essere esportato in tutta Italia e non soltanto a Roma, perché è stata una conquista importante ottenuta negli ultimi anni, quindi grazie per lo sforzo che avete impiegato, Max. E c'è il sito ovviamente supermagic.it, credo, e per andare a vedere le informazioni e cominciare, se volete, a prenotare i biglietti, perché vi dico, l'anno scorso io non ci sono riuscito ad andare proprio perché di posto non ce n'era già da molto prima. Grazie ancora, Max. Grazie a te, auguri, vi aspettiamo a Roma. Ciao, ciao. Ciao, auguri. Ecco, parliamo dei bambini. Su una rivista importante di Magia, Eriks, qualcuno aveva scritto, ma insomma sarò sempre costretto per tutta la vita a fare magia per i bambini, perché non ci sono i posti per farla per gli adulti. Eh sì, ma adesso questi posti si stanno in realtà creando, comunque, io credo, perché ci sono anche, veramente, ci sono tantissime realtà che si stanno interessando sempre di più alla magia. E tutte queste iniziative, Super Magic, Masters of Magic in TV, gli spettacoli teatrali, tutto quanto aiuta, apporta all'illusionismo, perché il pubblico lo scopre, e quando viene fatto ovviamente in una maniera corretta, elegante, interessante, allora il pubblico si appassiona a un'arte. Forse diamoci un attimo, parliamo anche del contrasto, un po' di, sì. No, senza fare polemica, però perché siamo arrivati in Italia a non avere l'illusionismo? Forse anche un po' perché abbiamo avuto un decennio nel quale l'illusionismo in Italia è stato un pochino sempre solo preso in giro, solo ed esclusivamente preso in giro, scanzonato, il che ci sta, perché la satira è fondamentale nella vita, ma la satira esiste quando c'è una controparte da prendere in giro e che però in realtà è seria. Mancando la controparte, rimaneva soltanto la scanzonatura di un'arte che veniva, non essendoci quindi la controparte seria e istituzionale, rimane soltanto un percorso dove quell'arte viene solo svalutata e disprezzata, e quindi è per questo è forse uno dei motivi. Non è vista più come arte, insomma. E quindi il pubblico ora la riscopre, e più la vede, più si renderà conto che dirà: ma caspita, ma la magia non è quello che mi hanno fatto vedere in televisione fino a ieri. È un'altra cosa, anche bellissima, perché mi sono impressionato, ho pianto, ho riso, ho avuto i brividi. E questo è una scoperta nuova che magari fa un pubblico adulto in realtà, certo, più che il bambino. Certo. Tra le altre cose, parlando di bambini, mi viene in mente questo, che ci sono moltissimi militari in Afghanistan americani, ma non soltanto, anche in tutti i territori dove ci sono le missioni, che organizzano spettacoli di illusionismo per i bambini di quella nazione, per esempio in Iraq o in Afghanistan, con grandissimo successo, perché là pare che la magia non ci sia, che non conoscano in realtà proprio questa forma di spettacolo, e che invece è una forma di spettacolo che aiuterebbe parecchio proprio a conoscere e a conoscersi e anche a mettersi in gioco. Per cui devo dire, ho visto molti filmati, anche fotografie, fa abbastanza pensare vedere delle persone in tuta mimetica con i mazzi di carte in mano, i foulard che appaiono e spariscono. Certo, hai detto una cosa molto interessante, cioè la magia non è fuori dal nostro mondo, non è un'arte del passato o una cosa solo per i bambini, e fin qui siamo d'accordo, l'abbiamo ben chiarito oggi, ma è lo specchio della nostra quotidianità. Perché la magia, che cos'è? Ti fa vedere, in realtà, ben dichiarando che ciò che vedi non esiste, è un'illusione, però ti fa vedere una possibile realtà. E te la fa vedere in questa realtà che sembra perfetta, un'illusione perfetta. Una donna tagliata in due, il classico esempio. Sai che è impossibile, perché non può vivere un mezzo corpo, ma in quel momento stai guardando una realtà, e questo è sconvolgente. Proviamo a pensare, quindi testa i tuoi sensi e testa la tua capacità di giudizio. Quante volte nella nostra giornata abbiamo delle false realtà davanti, camuffate, delle realtà camuffate, delle vere illusioni camuffate da realtà? Tantissime volte può succedere, e da qui nascono le truffe, il meccanismo, certo, dell'inganno. Certo. Quindi la magia è anche importante conoscerla e apprezzarla, perché ti mantiene dentro vivo questo senso di giudizio e di capacità di valutazione, che può essere importante nelle cose della vita anche. Ecco, quindi è uno strumento in qualche modo, sì. Potrebbe essere uno strumento. La misdirection, che sulla quale si basano le tecniche della magia, vuol dire deviazione dell'attenzione o controllo dell'attenzione. Quante volte succede in qualsiasi tecnica di vendita, di persuasione? Quindi l'illusionismo è assolutamente al passo. Con prima la Francesco Tesei parlava del suo tipo, certo, di spettacolo, il mentalismo, e lui usa anche la PNL, la programmazione neurolinguistica, per cui fondamentalmente riesce a spingere una persona, senza che se ne accorga, a fare una scelta piuttosto che un'altra. E molto spesso ci riesce anche bene, malgrado l'errore del quale ha parlato prima. Però sono tecniche usate anche proprio dai venditori, sì, alcune di queste. Esatto, è la riprova proprio che non siamo assolutamente fuori dal mondo o solo per i bambini. È un'arte complessa, e io vorrei dire che è l'arte dalla quale, oltretutto, l'arte che nasce con l'uomo, perché prima della scienza, prima della religione, prima dell'arte, esisteva solo il credere nella magia. Certo. Pensa quanto è dentro di noi. Anche perché i bravi illusionisti del passato, ma dico proprio del passato, da quando è nato l'uomo, poi venivano, sì, considerati stregoni. Sì. Perché secondo le persone erano capaci di poteri soprannaturali. In realtà c'erano dei trucchi molto spesso. Esatto. Noi lo diciamo anche in Mysterix, che è uno spettacolo di illusionismo, ma che, essendo uno spettacolo teatrale di illusionismo, ovviamente deve dare anche dei messaggi. Perché in teatro si va per divertirsi e anche per crescere. Per crescere, per ricevere delle informazioni, qualcosa che non si sa. Ebbene, il mistero, questo noi lo chiariamo molto, sveliamo anche dei segreti. Mostriamo. L'aspetto culturale della magia. Sì. Allora, io invito intanto gli ascoltatori, prima del GR, a raccogliere questi oggetti: una forchetta, un bicchiere, un telefonino, delle chiavi, un libro, delle forbici e una penna. Li ripeto: una forchetta, un bicchiere, un telefonino, delle chiavi, un libro, delle forbici e una penna. Tra poco. Il riposo del guerriero. 11 e 5 minuti, ancora buona domenica da Stefano Gallarini. Continuiamo il riposo del guerriero in questa puntata magica di Natale, perché di illusionismo stiamo parlando, di magie. Tra l'altro oggi ho degli ascoltatori pronti a fare questo esperimento magico, e io invito anche gli ascoltatori che non intervengono al telefono di fare le cose che però vi diciamo di fare, anche voi a casa, tutti, perché dovrebbe essere poi un mentalismo universale, ecco, chiamiamolo un mentalismo universale. Nuova parola, abbiamo coniato un nuovo numero. Dovete procurarvi degli oggetti che avete in casa, e gli oggetti devono essere questi: una forchetta, un bicchiere, un telefono, delle chiavi, un libro, delle forbici e una penna. Li ripeto per l'ultima volta: una forchetta, un bicchiere, un telefono, delle chiavi, un libro, delle forbici e una penna. Parlo con Enrico per poi andare avanti con invece Franco e Paolo. Ti ho chiamato col tuo vero nome, ma in realtà tu sei Eric Slogan, ecco. Sì, ma il mio primo vero nome è Enrico. Sì, però sai che una volta, perché in una trasmissione radiofonica ho chiamato un personaggio con il suo vero nome, perché nella quotidianità lo chiamavo con il vero nome, con il nome d'arte, e sono stato massacrato, me ne hanno detto di tutti i colori, perché ho sbagliato in onda. Sì, non si poteva assolutamente. Ecco. Beh, ma è un segreto, insomma, un nome d'arte è una finzione. Ma c'è chi se la prende, per cui se mi hai capito, ecco. Quindi finto anche il nome d'arte. No, il nome d'arte serve in realtà, soprattutto quando si gira per il mondo. Sì, sì, sì, esatto, è come creare un logo, diciamo, no? Uno slogan. Ma vuoi raccontarci la storia del tuo Eric Slogan? No, dai. No. non si racconta, però insomma tutti i nomi nascono da qualcosa, ovviamente, da un'esperienza, anche da questo punto di vista. Franco della provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Ciao Franco, adesso facciamo un esperimento con te e con Paolo anche, che sta ascoltando a Roma, e con tutti gli ascoltatori. Hai tutti i tuoi oggetti davanti? Ho tutti gli oggetti davanti. Ok, allora, io ho pensato a un oggetto e chissà se poi questo oggetto si materializzerà in qualche modo fra le tue mani. E faremo però un esperimento in questo modo: io scelgo due oggetti e tu dovrai eliminarne uno fra questi sette, va bene? Per esempio io scelgo il bicchiere e il telefono, tu che cosa vuoi eliminare? Lo devo dire? Sì, certo, eliminalo proprio fisicamente, spostalo. Tra il bicchiere e il telefono? Sì. Fatto. Cosa hai tolto? Il telefono. Ecco, allora tutti devono, tutti gli ascoltatori devono togliere via il telefono dagli oggetti che avevo elencato prima, va bene? Adesso tocca a te, sei tu che devi scegliere due oggetti, quelli che vuoi, e io ne elimino uno. Ok. Libro? Sì. E chiavi? Va bene, io elimino le chiavi. Ok? Okay. Abbiamo ancora la forchetta, il bicchiere, il libro, le forbici e la penna. E tocca a me, sì. Io scelgo le forbici e la penna, cosa vuoi escludere? Io escluderei le forbici. Le forbici, va bene. Ok, e a questo punto ti saluto Franco perché passiamo a Paolo. Ciao Franco, continua ad ascoltare ovviamente. Grazie. Ciao Franco, ciao. Paolo, buona domenica. Sì, eccomi, buona domenica. Ciao Paolo, sei rimasto con una forchetta, un bicchiere, un libro, una penna, come tutti gli ascoltatori. Sì, ok. Precisamente. Allora, tocca a te, scegli due oggetti, quelli che vuoi. Bene, penna e libro. Io elimino la penna. Bene. Adesso tocca a te però. Io scelgo la forchetta e il bicchiere. Cosa vuoi togliere? Il bicchiere. Il bicchiere. Ok. E tocca a questo punto, tocca a te. Tra forchetta e libro cosa scegli? Libro. E io elimino la forchetta, è rimasto soltanto un oggetto sul tavolo. E sul tavolo di tutti sarà il libro. Questa è la dimostrazione di come tutti avete assolutamente, casualmente, voi ascoltatori, avete scelto degli oggetti fra questi sette. Io quando ho scelto i miei, voi avete escluso voi quello che volevate da quelli che dicevo io e viceversa. Cioè io ne sceglievo due e voi avete escluso un oggetto fra questi due. Quindi era tutto assolutamente casuale, eppure la risposta è stata uguale per tutti. Alla fine siamo rimasti tutti con il libro in mano. Grazie Paolo. Grazie, grazie a voi, tanti auguri. Grazie, ciao. Enrico, quello che a volte sembra assolutamente casuale, in realtà non lo è. Mi stai guardando? Stai pensando? Sì, sì, sì, sì. No, perché pensavo parlassi allo te. No, no, sta parlando. Questa volta ti faccio una scenata perché non mi hai chiamato Erics. Esatto, ma dovresti farla, infatti. Ma chiamando gli ascoltatori per nome automaticamente viene automatico. Esatto. Allora rifaccio la domanda. Erics, allora, tante volte quello che succede è apparentemente è casuale, in realtà stai pensando al meccanismo, sì, di questa... Sì, ecco, sì, ecco perché ti vedevo così concentrato. Esatto, esatto, mi aveva rapito la tua magia. Avremmo potuto andare avanti con tantissimi oggetti. Tutto casuale, eppure alla fine no. E perché funziona il meccanismo? Perché quando una cosa è imprevedibile e poi invece la si vede accadere, uno immediatamente non pensa a come ha fatto, ma si lascia... Per un istante pensa che invece sia veramente magia. Eh sì, ma è proprio questo, è questo il bello di poter assistere a un effetto magico. Perché la prima sensazione, perché la prima reazione è quella di pancia, diciamo, più, sì, che di quella, no, giusto, di testa, no? Quella di cuore. Ed è quella più emozionale, a patto che ci sia ovviamente il contesto, lo stile, la presentazione adeguata. Perché si manca quella. Ah, poi tu sai che oggi però con la tecnologia si entra in una nuova forma, in una nuova dimensione anche di sensazioni. Lì apriamo un capitolo enorme. Allora, la tecnologia, sì, come internet ci ha dato la possibilità di vedere una valanga di video magici fatti da chiunque, sì, spiegati, svelati, e ormai non c'è più nessun segreto apparentemente. Sì. E quindi la forza sta proprio nella presentazione. Esatto. Quindi, e tra l'altro vedi com'è è curiosa questa cosa. Più conosci un'arte e più più la guardi. Quindi anche se in realtà YouTube, in realtà, anche se sembra abbia svelato i segreti e distrutto l'illusionismo, in realtà lo ha reso popolare. Quindi lo ha reso familiare a milioni di spettatori, insomma, certo, di persone, a milioni di persone, di utenti internet, esatto, così. E rendendolo popolare hanno interessato milioni di persone a questa forma di illusionismo. Certo. Perché non importa conoscere il trucco, io ovviamente praticando illusionismo da anni conosco un po' tutte le forme di illusionismo, ma io rimango stupito continuamente per quando vedo un effetto magico, perché la prima reazione è naturale, è quella naturale, istintiva, quindi gli occhi vedono qualcosa di incredibile e wow, si è presentato bene chiaramente. Certo. Se ci sono tutti gli ingredienti che mi creano l'ambiente per quella magia. Pensa anche ad un film, è uguale, sono dei film che dove piangi, ti commuovi perché si è creato l'ambiente giusto per chiarire i sensi. Eppure sai benissimo che stanno recitando gli attori. Esatto, mica facendo, esatto. Mica è vero. Sì. Pensa, cioè, non pensi mai che dietro ai due attori protagonisti c'è, ci sono 100 altre persone della troupe. È vero. Perché se tu pensassi a quello sarebbe finito, ma non ce la fai a pensarlo. No, è impossibile. È impossibile. È la stessa cosa quando guardi un effetto magico. Se arrivi a pensare, vuol dire che c'è qualcosa che non ha funzionato. Sì, ma forse c'è qualcosa di sbagliato dentro di te, un po' da rivedere anche. Anche perché a volte il gusto è anche quello. Beh, bisogna anche. Però io mi sono così divertito a vedere la tua faccia, Erix, alla fine di tutto il meccanismo, perché è stato divertente veramente. Questo è il senso della meraviglia che ho sperimentato di persona. Tant'è vero che nella faccia c'era un grande punto di domanda e alla mia domanda non hai risposto perché gli da un'altra parte. Via. Questo mi fa piacere. Stefano Di Pumpo, ciao, buongiorno. Ciao Stefano e auguri a te soprattutto. Grazie. Oggi, a noi. Esatto, infatti se no dobbiamo rimbalzarci completamente ovviamente. Allora, Stefano Di Pumpo, Stefano, tu hai fatto anche l'illusionista, lo fai anche adesso ma un po' meno, lo fai fare agli altri. Esatto, è il mio lavoro, però la magia è il mio lavoro. Esatto, la proponi alle persone, anche persone molto conosciute, perché tu vai a cercare in giro per il mondo, attraverso la rete, anche non solo fisicamente, ormai c'è internet, certo. Anche dei numeri da proporre agli altri. Infatti. E questi altri, io tra poco ti chiederò chi sono, che tipologia, e visto che tu ti occupi di questo da molti anni, capire un pochino com'è cambiato il mercato, ovvero com'è cambiato il senso della magia e l'apprezzare questa arte da parte degli italiani, visto che l'Italia parliamo. Gli aggiornamenti sul traffico e poi torniamo a parlare con te. Il riposo del guerriero. Allora Stefano, stavamo parlando di illusioni che tu proponi e che tu insegni anche. Volevo capire un po' come, se questo mercato è cambiato, se c'è più attenzione, come diceva Erix, verso questo tipo di arte. Ma guarda, dunque, intanto bisogna dire che io mi occupo di due cose fondamentalmente: vendere degli attrezzi ai maghi, quindi sono il pusher dei prestigiatori, un pochino, in senso buono, chiaramente. Certo. E poi una cosa che mi piace tantissimo fare, forse la cosa che mi piace di più fare, ho una piccola scuola di illusionismo. Proprio di quella parlavamo. E infatti, devo dire che il nostro pubblico è molto, molto, molto variegato, si passa dai professionisti, cioè quelli che lo fanno di mestiere, che hanno fatto questa scelta stranissima di vita, e poi anche da tantissime, tantissime persone che hanno proprio l'hobby, la passione o che si avvicinano proprio in questi giorni alla magia, anche da grandi, devo dire la verità. E quindi ne vediamo di tutti i colori. Ecco, ci sono ancora. Noi dicevamo che era più la magia si rivolge più a un pubblico maschile, forse per questa non voglia di crescere. Ahimè, che abbiamo. È ancora vero? Devo confermarlo. Sì, è così. È così, ci sono molti più maschietti che si interessano alla magia, credo anch'io per la famosa sindrome di Peter Pan. Ma devo dire che anche ultimamente qualche ragazza la vediamo, insomma. Senti, può essere usata come metodo per conoscere gli altri? Da chi è più timido, per esempio? Assolutamente. Guarda, noi abbiamo, fra l'altro, ultimamente c'è un trend verso chi fa e che è interessato alla magia, chi fa comunicazione in generale, chi fa, per esempio, corsi di formazione, ha capito che imparare qualche, diciamo, fra virgolette, trucchetto può essere un ottimo strumento. E quindi si avvicinano a noi ogni tipo di persona, tipo dentisti piuttosto che nonni che scoprono che magari possono fare magia per bambini, i loro nuovi nipotini per esempio. Ecco, quindi tu dici anche senza poi voler diventare dei professionisti può rimanere un hobby che si può imparare anche bene e far comunque bella figura e emozionare. Certo, e fra l'altro voi non avete ancora parlato, lo aggiungo io, sì. Che può essere interessante che la magia si fa 24 ore al giorno, infatti esiste proprio un branca proprio della magia che si chiama impromptu, che è una parola inglese che vuol dire improvvisato, e di fatto si può fare magia anche con tutti gli oggetti che abbiamo in casa, in un ufficio, in un bar, e spesso capita a quelli come me che la gente chieda fammi una magia e tu devi essere pronto a creare un'illusione con qualsiasi oggetto hai per le mani. Ecco, è vero, anche perché la forza di questo tipo di illusione è il fatto che gli oggetti non possono essere truccati. Infatti, deve essere tutto normale, la gente deve essere introdotta nella magia, come si vedeva in quel famoso film che è stato bellissimo per noi maghi, The Prestige. Ci deve essere la premessa, cioè la premessa alla magia, la promessa è questa, che ti faccio vedere degli oggetti, ti faccio però entrare nella dimensione magica. Senti, qual è? C'è un numero che tu fai più spesso agli altri e che gli altri continuano a chiederti di fare? Perché, ah sì. Qual è? Guarda, è terribile perché, allora, io mi siedo a tavola normalmente, sì. E quando c'è quel momento di attesa, così che uno non sa cosa fare, aspetta il cameriere, di solito prendo un panino e lo faccio rimbalzare a terra. Come se fosse di gomma? Come se fosse di gomma o un frutto. Il problema sai qual è, Stefano? Che poi chi l'ha già visto dice agli altri: Stefano, falli rimbalzare il panino. Rovinando chiaramente quello che è l'effetto finale. A quel punto tu lo devi far spatasciare per terra. No, ma guarda, il divertente è che c'è stato qualcuno che ci ha provato, quindi tipo spaccando un'arancia per terra. Ecco, la voi non fatelo perché comunque probabilmente c'è un sistema o sono le doti magiche di Stefano Lipumpo, ovviamente. Stefano, il sito, diamo quello del Fantastic Team. Di Fantastic Shop, assolutamente. Anche, sì. Dove si trovano le informazioni per venire alla nostra scuola. Certo. Siamo a Milano, però insomma, chi è nella zona lo può fare. Allora, Fantastic è scritto Funtastic come Fantastic divertimento. Shop, esatto. Okay. Sì, sì. Grazie Stefano, e manca a te ancora auguri. Ciao, ciao, Derek, ciao. Ciao Stefano. Ciao. Ciao, ciao. Allora, Eri Slogan, 4 minuti per chiudere abbiamo e per ovviamente dare un senso alla puntata magica di oggi. Quindi l'illusionismo abbiamo visto 24 ore, sì. Per tutti sicuramente. Utilissimo per la quotidianità di ognuno, per conoscere persone, per approcciare negli affari, nel business, per stare attenti a non farsi imbrogliare, per sognare. Per sognare soprattutto. Sì. E c'è una cosa della quale hai timore per quello che ti attende sul palcoscenico di Milano? Beh, chiaramente è un impegno molto importante. Mysterix è lo spettacolo che racchiuderà un po' i 20 anni di percorso mio personale in campo professionale nell'illusionismo, quindi è uno spettacolo che ho desiderato, è il mio sogno nel cassetto, uno spettacolo che ho desiderato per tutta la mia carriera. Sono almeno 10 anni che lo sogno e sono 3-4 anni che ci sto lavorando. È uno spettacolo che ovviamente parte da Milano, ma che a Milano fa solo una prima tappa, quasi una sorta di presentazione, quasi vorrei dire test, anche se è una parola un po' troppo tecnica, no? No, beh, però insomma. Una prima presentazione, chiamiamola così. Dopodiché lo spettacolo verrà anche un po' costruito dal pubblico, perché saranno gli spettatori che verranno al Teatro Nuovo. Quasi poi, un laboratorio. Quasi un laboratorio, sarà. Sì. Ci saranno poi gli spettatori che dai quali attraverso le loro reazioni capiremo le cose che sono piaciute di più, quelle che sono piaciute di meno, perché è uno spettacolo molto molto innovativo e quindi ci sono cose veramente che escono anche un po' dai canoni tradizionali dell'illusionismo. Userà anche la tecnologia. Userà molto la tecnologia, una tecnologia abbinata all'illusionismo, e si parlerà anche di quello, si parlerà della differenza fra la tecnologia che ha una spiegazione e la magia che non ha la spiegazione, perché la magia, il mistero, misteri, no? Iniziano dove finisce la conoscenza umana. E certo. La conoscenza umana va sempre avanti, perché c'è il desiderio di andare a scoprire il mistero, andare verso la magia. L'uomo è attratto, va sempre in direzione della magia, mano a mano che la scopre e gli dà un senso, non è più magia, diventa no. Scienza, diventa tecnologia. Assolutamente, infatti all'inizio del Novecento, quando la scienza era particolarmente importante, ma soprattutto si facevano tantissime scoperte nuove, i maghi avevano questa forza, sì, di conoscere la scienza prima delle persone, esatto. E quindi riuscivano con esperimenti scientifici a far sembrare vere delle è cose. Vero. E poi tornando ancora, sì, brevemente a parlare dello spettacolo, comunque uno spettacolo divertentissimo, ci sono ballerine, canto dal vivo, c'è uno spettacolo con dei mimi. Uno insomma, show nel è vero uno senso show, della parola, sì. Ecco, la magia non si chiude soltanto, no, in quello, ma è una delle espressioni, sì, artistiche. Esatto. Mysterix.it è il sito se volete qualche informazione. E, tra l'altro c'è una cosa che mi fanno notare, Guido Scotti, che è in assistenza oggi, che saluto, perché dice impromptu è latino, non è inglese. E molto spesso sappiamo che gli inglesi prendono in prestito delle parole latine, proprio quando vogliono parlare di questioni tecniche, lo fanno molto spesso. Ecco, noi dimentichiamo sempre troppo spesso, mi spiace la ripetizione, la nostra lingua, ce la scordiamo. Sì, di essere la culla della civiltà. Siamo stati anche la culla della magia e l'abbiamo persa. Speriamo di riacquistarla grazie a te anche. Grazie Eric Slogan. Grazie a tutti, ciao Stefano. E a tutti ovviamente gli ospiti che ci sono stati. Continuiamo comunque con la trasmissione ovviamente. Tra pochissimo devo dare il mio benvenuto a Davide Paolini, ma voglio ricordarvi 800 24 00 24 il numero, perché alle 11.30 giocheremo con lafeltrinelli.it e il mistero in 24 minuti. Il gastronauta Davide Paolini, buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti. Nelle tue scorribande tra i ristoranti del mondo, hai mai trovato chi ti faceva magia al tavolo? Dunque, sto pensando, ma penso proprio di no, e ti deludo. No, beh, cominceremo noi allora in qualche modo, sicuramente. Cioè, se tu parli di magia, che sì, magari uno ordinava una pietanza e ne arrivava un'altra. No, quella è un'altra cosa. Questo succede, oppure magari se tu ti raccontava il cameriere o, non so, anche il patron, che quella carne arrivava non so da dove, quel formaggio lo stesso, poi invece ti accorgevi che era altra cosa. Una trasformazione in cucina, questo chiamiamola così, ecco, certo. No, ci sono molti locali che adesso in Italia cominciano, ma all'estero ce ne sono tanti, dove mentre si cena arriva il mago e così fa dei numeri mentre le persone intrattiene, ecco, diciamo, non senza essere invadenti, ovviamente, perché le persone amano cenare, però, e quindi anche in Italia sta arrivando questa tradizione. A proposito di tradizione, Davide, sotto l'albero, ormai l'albero, così i regali sono spariti, troviamo qualcosa da mangiare invece. Dal 26 in poi che cosa ci consigli? Ma guarda, dal 26 in poi io direi di stare abbastanza leggeri, cioè, perché poi arriva il 31 e quindi forse il pranzo del 31 in molte aree d'Italia, proprio per tradizione, è molto più ricco, perché si parla di cotechino, si parla di zampone, si parla di lenticchie, e quindi secondo me bisogna stare un po' in questi 4-5 giorni di cercare di mangiare, non dico a dieta per carità, però di non esagerare coi grassi, di non esagerare coi vini, perché poi l'ultimo dell'anno si brinda di solito e quindi si beve abbastanza, e allora moderazione in questo periodo. E magari la cosa che io consiglio è che per il pranzo di Natale sono rimasti moltissimi cibi che non sono stati mangiati. Gli avanzi, quindi, insomma. Gli avanzi, ecco. Un recupero. Ma io più che avanzi direi quello che è rimasto. Tra l'altro io il prossimo sabato farò proprio una trasmissione su questo, su come recuperare gli avanzi dei grandi pranzi, perché credo che ci sia molto cibo che poi viene buttato, che in realtà potrebbe essere riutilizzato, ma anche in maniera molto intelligente, con dei risultati ottimi dal punto di vista del palato e soprattutto del portafoglio. Quindi credo che valga la pena appunto di recuperare, ad esempio, il panettone viene recuperato in mille modi, con delle creme, con lo zabaglione, insomma, al forno, quindi ci sono moltissimi modi. Gli stessi, siccome diciamo che la tradizione dal nord al sud del giorno di Natale è abbastanza basata su un primo di pasta, o che sia in brodo o che sia asciutto, che sia un timballo, che sia un pasticcio, che siano tortellini o anolini, beh, la pasta viene recuperata sicuramente facendola in mille modi, ad esempio facendola anche in padella, quindi c'è un modo di recuperare quello che è rimasto. Il brodo poi anche quello ha mille modi per essere recuperato, quindi credo che c'è una serie di ricette ottime per poter rimangiare anche delle buone cose. Tra l'altro c'è un libro storico, tradizionale, diciamo, che è stato scritto da Olindo Guerrini, detto lo Stecchetti, che era un poeta dialettale romagnolo dei primi Novecento. Ebbene, ha scritto un libro di come recuperare gli avanzi. Io lo consiglio sempre, perché secondo me è un testo sacro su questo. Ci sono veramente delle ricette favolose, e soprattutto c'è una serie di ricette di polpette, che sono il vero recupero, che si può fare da tutto, carne di pollo, carne di manzo, dalle verdure ad altro, che è straordinario. Infatti che sono anche buonissime. Senti, 30 secondi per una cosa, chi volesse accompagnare comunque questi pasti, diciamo così, meno importanti in attesa del 31, con il vino, cos'è che puoi consigliare perché non sia un vino troppo importante ma sicuramente ottimo? Ma guarda, cioè, sul vino farei un discorso diverso, perché sai, i vini importanti sì, sono molti rossi, tipo Barolo, Brunello, dato, però in Italia ormai abbiamo una varietà di vini che veramente c'è l'imbarazzo della scelta, e quindi su questo io direi di stare semplicemente attenti alla gradazione, cioè di non esagerare con i 13 gradi, 13 gradi e mezzo, quindi di stare sotto, però credo che le bollicine e i frizzanti siano un ottimo accompagnamento, perché non sono molto importanti o pesanti, quindi a meno che non siano dei millesimati, però credo che si va su questa strada, si possa andare, e attenzione però, non pensare che il bianco è più leggero del rosso, perché molti pensano che certo. Il bianco sia, bisogna sempre stare attenti alla gradazione, e quindi ci sono dei rossi che sicuramente sono molto, molto più leggeri di tanti bianchi, quindi di stare attenti a questo. Anche le bollicine che magari si hanno avute in regalo al posto di tenerle lì, no? Che non sai mai, perché tutti aspettano sempre l'occasione, invece l'occasione può essere anche la quotidianità. No, infatti proprio ieri l'altro mi diceva un tecnico di Radio 24 che il padre e la madre hanno tenuto per anni degli champagne importanti di nomi altisonanti, e l'altro giorno gli ha detto vabbè, prendiamo una di queste bottiglie, ed era completamente madarizzato per quello, infatti anni. Quindi apriamole e basta, godiamocele, basta, godiamocele. Grazie Davide Paolini, ciao sentiamo domenica prossima, e le previsioni del tempo, e poi torniamo con il mistero in 24 minuti. Il riposo del guerriero. Anche oggi giochiamo, ci sono 1000 euro da vincere sulla Feltrinelli.it, da spendere sul sito la Feltrinelli.it per il mistero in 24 minuti. Un mistero in 24 minuti. Si parte infatti da questa cifra, dovete risolvere il mistero attraverso i nostri indizi, che sono indizi musicali, la risposta può essere un personaggio del presente, del passato, di fantasia o una notizia della settimana. Per arrivare alla soluzione ovviamente dovete stare attenti a quello che ascolterete, più indizi ascolterete però e più il premio si abbasserà. 800 24 00 24 per partecipare, e il primo indizio arriva da Vasco Rossi, direi che è proprio in tema con quello che abbiamo appena raccontato anche con Davide Paolini. Piccolo spazio pubblicità. Eccolo qui, un grande successo di Vasco Rossi, che è Bollicine. Giuseppe di Napoli, ciao, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, ci sono 1000 euro pronti per te. Cosa vuoi fare, Giuseppe? Non ci avrei, avevo pensato... Aspetta, subito... allora, quindi tu vuoi tentare i 1000 euro? Sì. Tentiamo, tanto non penso che... Sì, dicevo, avevo pensato... Vasco Rossi, Bollicina, Rossi Vino, proprio come diceva Paolini prima. Però poi ho avuto pure altre, non lo so perché, ho avuto un accostamento a un altro personaggio. Poi cercando un po' in internet ho visto pure che era una sorta di suo compleanno, comunque proprio con quest'altro. Secondo me si tratta di Peter Pan. Di Peter Pan, abbiamo parlato anche oggi col complesso. Grazie Giuseppe, buona giornata. Ciao. Grazie. Tra l'altro la risposta potrebbe anche essere quella giusta, ma lo scopriremo solo allo scoccare del 24esimo minuto. Vi ricordo che la risposta può essere un personaggio oppure una notizia della settimana. Nadia da Cuneo. Sì. Ciao Nadia, buongiorno. Ciao, buongiorno. Senti Nadia, ma in questo periodo ci sono i cunesi, se ne mangiano? Sì, appunto, no? Sono particolarmente buoni, mi viene in mente che magari sono un prodotto natalizio. Allora Nadia, che cosa vuoi fare? La canzone non mi dice niente. Non ti dice niente? Di Vasco Rossi, Bollicine, poi Coca-Cola. Vabbè, insomma, pubblicità anche, se per quello. Sì, c'è la pubblicità con un cantante. Allora cosa vuoi fare? Vuoi un altro indizio o vuoi tentare? Ma se sbaglio, preferisco un altro indizio. Un altro indizio. Allora scendiamo a 500 euro ed ecco il secondo indizio. E sempre ci ripenso al camminare morbido e al tuo affetto regalato. Avvolto nel silenzio, risento flebile il candore tenero che scorre ancora, geloso nella mano. E 13 anni scappano perché la vita è un attimo. Eccola qua questa canzone dal cuore di Tiziano Ferro, si intitola 13 anni, Nadia. Sì. E questo era il secondo indizio. Magari può centrare i bambini, qualcosa. No. Non lo so, devi darmi una risposta tu. Non ce l'ho. Non ce l'hai. Non mi viene in mente niente. Sotto l'albero cosa hai trovato, Nadia? I regali. Ho capito. Va bene, allora facciamo i regali e potrebbe essere una risposta. Grazie, ciao Nadia. Grazie. Ciao, grazie, buona domenica. Perché no? Andiamo avanti e sentiamo Alberto da Padova. Alberto. Sì, pronto. Eccoci qua, Alberto. Allora, siamo a 500 euro. Due indizi li abbiamo scoperti. Cosa vuoi fare? Ma io provo a dare la risposta. Oh, bene. Secondo me si tratta di Babbo Natale, visto il periodo. Perché? Perché il primo indizio parla della Coca-Cola e sappiamo che poi è stata la Coca-Cola a dipingere il Babbo Natale come lo conosciamo adesso. Mm. E poi il secondo indizio mi riporta molto ai 13 anni, ai 13 bambini. Anni. Quindi. Grazie Alberto, ciao, buona domenica. Ciao. Ciao, ciao. Me lo immagino, il solito è adulto. Alberto, no, Luciano da Reggio Emilia. Ciao Luciano, buongiorno. Buongiorno. Il solito Babbo Natale ha qualche anno in più. Sì, in genere, quello che conosciamo noi, sì. Allora, Luciano, cosa vuoi fare? Oggi quasi la sparo anch'io perché sono talmente nelle nebbie che... Ci sono anche altri indizi eventualmente, Rischierebbe di offuscarmi ancora di più, quindi la sparo e poi vado come vado. Io direi la scomparsa di Enzo Berlotto. Perché me ne va, specialmente la seconda canzone dice spesso me ne vado. Eh sì, perché parla di qualcuno che non c'è più. Esatto, io. Chissà, Luciano, potrebbero essere i tuoi 500 euro. Grazie, ciao. Va bene, arrivederci, buon dito. Ciao, buona domenica. Laura dalla provincia di Ancona. Eccoci qua. Ciao Laura. Aspetta che ricordo il numero 800240024. Laura. Sì. Cosa vuoi fare? Ma per me ha ragione Alberto di Padova, anche per me è Babbo Natale. Ma non vale la risposta, l'hanno già detto. E allora diciamo Santa Lucia, 13 che porta i regali. Tu l'hai mai festeggiata, Laura, Santa Lucia? La verità di questi giorni non è molto, molto, molto conosciuta. Non si usa. Verso il nord. Infatti. Grazie Laura, buona giornata. Buone cose, tanti auguri a tutti. Ciao, grazie, ciao. Chissà, Enrico da Ferrara, buongiorno. Buongiorno. Allora Enrico, abbiamo due indizi soltanto scoperti, un po' di risposte date e la possibilità di portarti a casa 500 euro in questo momento. Io purtroppo mi vedo costretto a chiedere l'aiuto. Allora, terzo indizio, abbiamo 300 euro. Ringside, and I'm standing on it. Inside, and approaching is Miss Madonna. I'm on the charge. Sonora della signora in rosso, la woman in red, non era la signora in rosso, mi confondo con la signora in giallo. Come che si intitolava il film? Ho un'amnesia in questo momento. Comunque lui era Stevie Wonder. Sicuramente gli aggiornamenti sul traffico. Un mistero in 24 minuti. Continuiamo con il nostro mistero. Enrico. Sì, eccomi qua. Eccoti lì. Allora. Terzo indizio, la signora in rosso era giusto poi il titolo del film? Sì. Con Gene Wilder. Ma a me viene da pensare con poca convinzione a Michelle Obama. L'hai vista ieri nel discorso con Obama? Esatto. sotto l'albero. Esatto, sotto l'albero. Poi mi viene da pensare alle notizie che sono apparse di recente sulla sua attività tipo Babbo Natale, telefonista Babbo Natale, diciamo in un'opera di beneficenza. Certo, quindi... certo. Da buona First Lady. Grazie Enrico. Buona giornata, ciao, grazie. Grazie. Come sempre le risposte, ma solo una è quella giusta e la si scoprirà al 24esimo minuto. Antonella dalla provincia di Modena, buongiorno, ciao Antonella. Ciao Stefano. Ciao. Allora, niente, io volevo dire Berzot, ma l'hanno già detto. L'hanno già detto, sì. Sì, esatto. E quindi, niente, Woman in Red mi viene in mente solo, insomma, mi è venuta in mente la Barbara Berlusconi, cioè l'intervista che ha rilasciato su suo padre. Grazie Antonella. Niente. Buona domenica. Anche a te, ciao. 800 24 00 24 Francesca dalla provincia di Firenze. Buongiorno Stefano. Buongiorno a te. Ciao. Senti, io invece ho pensato a Manuela Arcuri, a quello spot un po' discusso che sta facendo in relazione alla pubblicità di un libro. Grazie Francesca, che piglio deciso. Grazie. Eccoci qua, chissà, magari. Vediamo. Grazie, vediamo. Francesca. Buona giornata, auguri. Anche a te, Daniele, ciao. Dalla provincia di Brescia. Buongiorno, ho sentito solo il primo indizio allora, e poi sono sceso dalla macchina. Allora cosa vogliamo fare? Ascoltare tutti gli indizi? Mi butto. Aspetta. Allora, per regola devo farti ascoltare i tre indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento. Tutte quelle bollici. E 13 anni scappano. Perché la vita è un attimo. The woman in red. The woman in red. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Allora, Daniele, abbiamo 5 minuti per cercare di risolvere questo mistero. La prima canzone era Bollicine di Vasco Rossi, poi 13 anni di Tiziano Ferro e l'ultima The Woman in Red, la signora in rosso, Stevie Wonder. Daniele. Ma io mi butto per la prima, la produzione italiana di spumanti quest'anno ha superato quella francese. Sei contento? Come quantità. Sei contento? Sì, tu sei contento, sei dalla provincia di Brescia. Sono consumatore, sì. Beh sì, appunto dicevo, comunque provincia di Brescia e Franciacorta è lì, per cui ci sono produttori molto importanti proprio nella tua zona. Grazie Daniele. Grazie. Buona giornata. Ciao. Buona giornata a voi. Immagino che sia un consumatore, nel senso che esce di casa e lì ha tutte le cantine. Maria Vittoria. Ciao. Che nome importante. Grazie. Vero? Maria Vittoria. Come ti chiamano gli amici? Vittoria, Maria. Vittoria. Vittoria. Sì, Vittoria. È un po' impegnativo Maria Vittoria tutte le volte. Sì, devo dire abbastanza, da molti punti di vista. Allora, Maria Vittoria, cosa vogliamo fare? Ci sono altri indizi per te, anche se il premio scenderebbe. Siamo a 300 euro in questo momento. Ma guarda, io non ne ho un'idea, fammi sentire un altro indizio, magari qualcosa mi viene in mente. Guarda, sai perché sono contento di farti ascoltare il quarto indizio? Un po' mi spiace perché scendiamo a 200 euro, sì. Ma sono contento perché la canzone la trovo bellissima, scritta dagli Audio 2 e interpretata da Mina. Mina del quarto indizio di neve è il quarto indizio, quindi 200 euro. Maria Vittoria. Allora, senti, a me viene solo in mente un fatto di cronaca di cui stanno parlando tutti i telegiornali, purtroppo un fatto molto, molto grave, ed è la scomparsa di Yara. Pronto? Sì, sto ascoltando Maria Vittoria. Ecco, a me viene solo in mente questo. Grazie Maria Vittoria. Okay, buona ciao. Domenica, ciao. Grazie, ciao. E da Maria Vittoria accorciamo e passiamo a Vittoria da Milano però, ciao. Sì, pronto? Eccoci qua Vittoria. Ciao. Allora. In effetti mi chiamo anch'io Maria Vittoria, l'ho accorciato prima. Ma dai, vedi, la casualità. Oggi l'illusionismo, due ascoltatori, uno attaccato all'altro con lo stesso nome. Perfetto. Non era un caso, l'abbiamo voluto. Allora, no. Vittoria. Allora... qualche idea, ma un altro indizio. Vuoi l'altro indizio? Sarebbe sì. L'ultimo indizio, andiamo a 100 euro. Ok. La famosa canzone di Poglia. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce, almeno loro, fanno la pace. Così... Vittoria, fine del tempo, la tua risposta. Vettel che correrà alla Ferrari. Mi dispiace, no. Grazie, no, Vittoria, un bacio, ciao. A tutti, ciao. Auguri, grazie. Alberto da Padova. Sì, pronto. Ciao, complimenti, era proprio Babbo Natale, è vero, grazie. La Coca-Cola ha imposto i suoi colori. 13 esatto. Anni perché sono 13 per gli islandesi Babbi Natale, The Woman in Red perché il colore è il rosso, la neve, lo sappiamo perché, i bambini fanno, sappiamo anche quello perché. Grazie Alberto e complimenti, 500 euro per te da spendere sulla feltrinelli.it. Grazie. Ciao, ciao. Grazie a Giorgio De Luca, redazione, l'assistenza di Guido Scotti, Filippo Reggi in regia e a tutti voi ovviamente. L'appuntamento è per l'anno nuovo, il 2 con una puntata speciale dove vedremo di capire come sarà, immagino che sarà straordinario, il vostro 2011. Ancora auguri da Stefano Gallarini.